Dal telefonino al navigatore, dai social network che ci chiedono dove sei, all'uso della geografia nella moda e nel design, quanto sono diventate familiari le mappe? Sono entrate nella quotidianità di molti di noi, sono uno dei simboli più diffusi nell'immaginario collettivo e fanno tendenza. Patrizia, tutti pazzi per il mapping, è così? Sì, siamo connessi mobili in rete proprio perché potremmo essere ovunque. La domanda dove sei è quella che tutti facciamo, che tutti siamo interessati a fare alle persone a cui telefoniamo, ed è la stessa domanda che ci fanno i nostri smartphone e tablet, formulata più o meno così: mi consenti di localizzare la tua posizione? Avere un GPS in tasca significa dunque accedere a sempre maggiori informazioni su un certo luogo mentre si è in quel luogo, dai negozi ai ristoranti, ai musei, orari, ma anche post, commenti, recensioni fatte da altri, e conoscere per esempio le promozioni locali, come nel caso di My Groupon, o eventi culturali, ed essere parte di quelle stesse informazioni, perché a nostra volta ci geolocalizziamo, facciamo per esempio il check-in, cioè ci registriamo nei posti in cui andiamo. Questa è un'enorme opportunità per il marketing, evidentemente. Consideriamo che nel mondo il numero degli abbonamenti all'internet mobile che consente questi servizi appunto di localizzazione, di mappatura del dove siamo, sono in crescita esponenziale. Oggi quasi 1 miliardo, con una stima di 5 miliardi entro il 2017. E nell'era di mappe e geolocalizzazione c'è anche chi pensa però a come perdersi, alla ricerca della strada sbagliata. Sono le applicazioni per non arrivare a destinazione. Sentiamo. Ritornare sempre al punto di partenza. Vademecum per perdere la strada e non arrivare mai a destinazione. Nell'era di Google Maps e telefonini con GPS sempre in grado di indirizzarci verso la giusta via, la tecnologia riscopre la curiosità di ciò che resta sconosciuto e casuale, con programmi pensati ad hoc per seguire gli itinerari sbagliati in città, come AWOL, guida con lo scopo di farci smarrire. In un mix tra provocazione e divertimento, il pacchetto include una bussola che non funziona e una mappa con una serie di percorsi algoritmici capaci di farci tornare sempre al punto iniziale. Nella stessa direzione il web service Get Lost Bot segnala i posti che si visitano più frequentemente e offre delle strade alternative per evitare ripetizione e noia. E così fanno anche le applicazioni per smartphone e tablet come Drift, che facilita la confusione nei luoghi più familiari, e Serendipitour, che aiuta a trovare proprio quello che non si stava cercando.